proprio contesto comunitario, questi soggetti che hanno subito piccoli comuni, come per dire all'Aquila, piccoli comuni completamente devastati. Allora, lui aveva la necessità di capire questi in che modo si relazionano tra di loro, no? Allora, sì, in genere come si ragiona rispetto a questi soggetti? Si ragiona per appartenenza, cioè fanno parte di alcune famiglie, alcuni sono italiani, altri sono stranieri, alcuni sono lavoratori, altri sono invece anziani in pensione, in cassa integrazione, eccetera, eccetera. Cioè cominciare a individuare questi soggetti dentro gruppi, come se questi gruppi, la condivisione di una stessa posizione dentro una caratteristica, nell'ambito di caratteristiche individuali, sia di per sé garanzia di relazione. In realtà ragionare per gruppi non vi consente di fare luce sulle reti di relazioni che tra queste persone esistono, delle quali voi potreste non accorgervi mai. Tra le persone, al di là delle, se il gruppo, allora ci sono due modi di definire il gruppo. Il gruppo può essere una categoria di riferimento, di appartenenza, se ricorda le cerchie, oppure voi definite il gruppo empiricamente. Quando è che si ha un gruppo? Quando tra un certo insieme di persone ci sono dei modelli strutturati di relazione che si ripetono nel corso del tempo, e questi producono un senso di appartenenza, di riconoscimento reciproco come membro di un gruppo. Quindi un gruppo in questo senso è una cosa molto difficile da provare, cioè voglio dire un insieme di soggetti che fanno parte di una stessa squadra, che praticano lo stesso sport da anni, oppure che lavorano assieme, possono essere immaginati come gruppo a partire dalle relazioni sociali. Quello che noi in genere facciamo è classificare i soggetti in base alle caratteristiche che hanno, per cui ti aspetti che si comporteranno in un certo modo perché sono pensionati, perché sono immigrati, perché sono giovani, sono vecchi, eccetera. No? In realtà, se utilizziamo un approccio di questo tipo, tu ti aspetti che questo si comporti a nessuno di voi, perché quando io vi ho chiesto questo sarà un gruppo, insomma ti risposto sì. Non è come avete chiesto, ma è maschio o femmina? È ricco e povero, è laureato o a terza media, quali sono le sue caratteristiche? Non serve saperlo, perché se fa il blogger produce degli effetti a prescindere dalle caratteristiche che ha, d'accordo? Quindi quando si parla di posizione strutturale si parla proprio di questo aspetto. Allora, una cosa molto interessante di Crossley, che Crossley, questo magari lo potete insegnare, Crossley identifica alcune dimensioni nell'interazione. Le dimensioni dell'interazione sociale, la dimensione simbolica, la dimensione affettiva, la dimensione della convenzione e innovazione, la dimensione strategica e quella dello scambio potere. Su ciascuna di queste adesso dedicheremo un piccolo approfondimento, magari se volete ci possiamo tirare il fiato per 5 minuti. E in modo particolare, quando parleremo di dimensione strategica, e sono molto più interessato a questo aspetto, lei mi perdonerà in modo particolare per la presenza dei suoi colleghi che si occupano giorno per giorno di strategie, e vedremo una cosa molto interessante che è la teoria dei giochi e il dilemma del prigioniero, che probabilmente già. E perché è interessante dire a me il prigioniero? Perché noi partiamo dal presupposto che gli individui agiscano tra di loro come degli attori razionali. Allora, chi è l'attore razionale? Modello economico, avete fatto qualche esame di economia nel vostro? L'avete incontrato qualche esame di economia, no? Perché lei è puro da questo punto di vista, lei forse qualcosa l'ha fatta, o no? Allora, chi è l'attore razionale? L'attore perfettamente razionale, mi comprenderete per la presenza, è l'attore che agisce in maniera perfettamente razionale rispetto ai suoi scopi, cioè che cerca di massimizzare il rapporto tra le risorse che usa nell'azione e i vantaggi che ottiene. Ok? Massimizza questo fattore razionale. Cioè, diciamo, lo scopo, la razionalità è definita dentro la testa dell'attore, cioè quello che serve a me. Ok? Col dilemma del prigioniero si dimostra invece che l'attore razionale rispetto alle sue finalità è quello che ragiona in maniera cooperativa, cioè mettendo dentro il bene anche degli altri. Questo è molto importante, è molto importante perché rompe completamente questo paradigma, perché se noi usiamo questo paradigma immaginiamo di avere a che fare con delle persone che quando interagiscono noi diamo una risorsa disponibile per aiutarli, questi interagiranno, magari si scambieranno questa risorsa unicamente per massimizzare il loro profitto, ma definiranno questo profitto unicamente a partire da quello che loro ritengono importante per sé, senza avere il punto di vista dell'altro. Capire dal punto di vista teorico questo è importante qua, perché se noi per interagire, per agire verso l'altro, dobbiamo avere prima in mente l'interazione, perché l'interazione lo precede, anche l'azione razionale deve essere cooperativa, deve tenere dentro il punto di vista dell'altro, altrimenti teoricamente questo modello cade, d'accordo? Se l'altro ci deve essere prima che io agisca nei suoi confronti, è chiaro che io non posso definire la razionalità dell'azione solo rispetto a quello che io ho in testa, ma ci dovrò mettere anche l'altro. Se si riesce a dimostrare questo, si riesce a dimostrare che l'agire cooperativo è razionale rispetto allo scopo, più dell'agire non cooperativo. E in questo senso, quando identifica la definizione strategica, usa il dilemma del prigioniero, con il dilemma del prigioniero si capisce questo passaggio. Quindi adesso lo vedremo molto rapidamente. Perché questi aspetti sono importanti? Perché quando vi troverete a diversi livelli a gestire una situazione di emergenza, dovrete decidere se tutte o in modo particolare alcune di queste dimensioni dovranno essere analizzate, approfondite nella ricerca. Dopodiché, se voi decidete di studiare soprattutto la dimensione simbolica, penso a lei, anche della dimensione culturale, dimensione simbolica, allora l'indicatore di legame deve essere un indicatore che sia adeguato per quella dimensione. Qui non puoi chiedere come si distribuisce una risorsa se ti interessa la dimensione simbolica. Potrai avere una piccola idea, devi fare una domanda specifica, per esempio un buon indicatore di legame simbolico è chiedere ai soggetti se parteciparono a, non so, nel paesino che andavano distrutto c'era la sede del WWF, chiedere se erano iscritti al WWF e partecipavano a questo corso, eccetera, eccetera. Caspita, sta c'entra. Il legame soggettivo è un legame simbolico, è una condivisione, quindi tra questi soggetti c'è una affinità forte che voi potete anche utilizzare per garantire una maggiore coesione all'interno del contesto che dovete sostenere. Se vi interessa invece la dimensione strategica, faccio questo esempio in modo particolare, potete studiarlo per esempio dando una risorsa disponibile a qualcuno e chiedendo a questo di distribuirla agli altri, di appuntarsi sulla restituzione, non per differenziare il tipo di aiuto, ma per capire che tipo di legami strategici ci sono tra i soggetti. Una volta che li avete capiti, poi intervenite con il grosso delle risorse, cioè usare questi espedienti senza fare direttamente una domanda: scusi, ma lei con quali di questi suoi colleghi è strategicamente connesso? Cioè è già molto come di casetta, ma lei che ha bevuto domanda, oppure è serio, sta parlando seriamente, no? Bisogna trovare l'indicatore adeguato, no? Quindi io ho approfondito questa parte su Crossi perché secondo me Crossi identifica bene queste tendenze. Dopodiché, una volta scelto l'indicatore, la strada da percorrere è quella che ho trovato nel testo di metodologia. Vi vorrete fermare 5 minuti? No. Io no. Siamo appena arrivato. Allora andiamo avanti. No, pensavo di dirmi meglio. Io così a naso, indicando qual è la cosa che non avendo tipo quello più grande. Sì. La luce poteva dedicare diversi soggetti e che poteva essere nella riunione diversi gruppi era proprio lo scopo. Cioè lo scopo a cui potevano tendere i vari gruppi, tipo quelli che, a cui era crollata la casa completamente, che la dovevano ricostruire, o quelli che erano solo lesionate, perché l'obiettivo primario in quel contesto lì, secondo la fantasia che ho fatto, era proprio quello di risolvere il problema. Allora, quale poteva essere l'obiettivo più valido per coagulare dei gruppi su un'unica idea? Era quello proprio l'obiettivo della ricostruzione. discussione. Quindi si trovano dei soggetti diversi, con diversa natura, ma che hanno obiettivo unico. Quindi avranno l'intento di agire tutti in quel senso là. Allora l'obiettivo maggiore potrebbe essere questo. Però in effetti ci sta anche tutto il resto attorno. Però in prima istanza mi è venuto in mente questa cosa qui, cioè nel senso che dargli un obiettivo. Se gli dai un obiettivo, la gente attorno a quello si quadra, però bisogna vedere che contesto poi in effetti si svilupperà poi tutta la situazione sociale che si viene a creare. Beh, allora, però, la cosa che sta dicendo lei, secondo me, come dire, tocca un aspetto un po' diverso. L'obiettivo che lei dice è collegato all'erogazione di un bene da parte dello Stato, delle istituzioni, politiche. Sì. Ok? Quel bene non è erogabile in base alla capacità dei soggetti di aggregarsi, quel bene è erogato come diritto individuale, è un bene pubblico. Cioè, se io e lei abbiamo la casa lesionata e lo Stato aiuta lei, non è che toglie dei soldi a me, ci aiuterà quando potrà aiutare tutti e due, d'accordo? Anzi, io direi che dove. Quindi io ci vedo poco la capacità, come dire, dei soggetti di aggregarsi attorno a uno scopo, a un obiettivo, nella fattispecie particolare. Dopodiché, invece, se si dà uno scopo, identificare la funzione del gruppo, poi lo vedremo, è un modo per fare delle tipologie dirette, ok? Però deve essere la funzione collegata alla produzione di un bene relazionale, cioè un bene che nasce dalla creazione del legame. Allora è diverso. Per esempio, il suo comune ha una struttura, ok? Una struttura che deve decidere di ammodernare, strutturare, eccetera, no? E pensa che questa struttura potrebbe essere utilizzata dalle associazioni culturali locali, da chi fa musica all'interno del comune, no? Questo è un esempio piuttosto tipico, una cosa che può capitare. Però lei potrebbe, il comune potrebbe dire, bene, io investo qui, se esiste, se si produce una rete che garantisce la funzionalità di questo bene nel corso del tempo, almeno 30 eventi all'anno, differenziati, eccetera. Quindi diramo questa comunicazione alle associazioni, ai singoli cittadini, eccetera, eccetera, i quali hanno 4 mesi di tempo per portare uno o più progetti organizzativi nelle mani del comune, che il comune dirà, bene, se questi sono i presupposti, secondo me ci sono, allora investe del denaro per ristrutturare la struttura, dopodiché la struttura sarà data utilizzata a coloro che, però si devono accordare per usarla in maniera coordinata, d'accordo? Allora questo potrebbe essere un modo per far creare una rete rispetto a una funzione, ma il bene sta nella produzione della rete. D'accordo? Se voi non vi organizzate, rimane dove. Non avete un diritto individuale da reclamare, che è il diritto alla riparazione della casa, eccetera. Ma è una cosa in più. È un esempio, se ne potrebbero fare altri. Lo scorso venerdì, anche forse perché si avvicinava l'ora di cena, abbiamo fatto l'esempio del lievito. Nelle piccole comunità le relazioni tra famiglie si studiavano bene vedendo come circolava il lievito, che il lievito si usa e si presta. La mia famiglia fa il pane lunedì, la sua famiglia fa il pane martedì, siamo famiglie, facciamo anche famiglie che sono fortemente collegate, si va il martedì, ci pensate di fare il pane per la vostra famiglia la settimana, lo usi fin tanto che lo usi, cioè se non lo usi muore. D'accordo? In questo senso qua. Quindi quello che dice lei secondo me è corretto, ma non in quell'esempio, in modo particolare, perché c'è una enorme differenza di potere tra lo Stato che eroga e il cittadino che ha un diritto individuale, non prevede, anzi diciamo che se si collegano i diritti alla presenza di reti, in genere si produce diseguaglianza sociale, si favorisce diseguaglianza sociale, questo non fa parte del progetto della modernità. Diciamo così. Allora, queste dimensioni sono interattive, cioè tra loro sono interrelate e pur essendo sempre criticamente presenti possono risultare di volta in volta più o meno rilevanti in base a quello che voi volete, studiare, direi anche. D'accordo? Quindi, per esempio, non sarebbe male capire anche se ci sono dimensioni simboliche che tendenzialmente si presentano assieme ad alcune dimensioni strategiche e ad altre dimensioni di scambio potere, cioè se si combinano tra di loro in maniera particolare, avere dei profili diversi. Ma è chiaro che questo ambito, dal punto di vista analitico strutturale, è un ambito che deve essere, diciamo che pionieristico un po', nel senso che non esistono dei modelli prestrutturati da poter applicare di volta in volta, e però, diciamo, si può fare un'idea provando ad applicare rispetto all'attività di ricerca che si svolge. La dimensione simbolica, vedete, gli autori di riferimento per cose sono Mead, Schultz, eccetera. Ma Mead? Chi era? La scuola di Chicago? No, ma Mead era... no, non era la scuola di Chicago. Perché la risulta? Chi è che suona per me? Sì, la risulta. No. Su Bach, forse? No, Bach sì. No, Mead non riesco a ricollegare. Mead è, diciamo, il fondatore, e poi è stato ripreso, dall'interazionismo simbolico. Io non ho mai parlato esplicitamente di questo, ma l'interazionismo simbolico contemporaneo riprende Mead. Cioè, la società è una continua circolazione di simboli tra gli individui. Allora, le interazioni sono simboliche poiché gli attori interpretano le azioni degli altri e li tipizzano. Cosa vuol dire gesto simbolico? Questo è molto importante. Torniamo alla cosa che dicevo prima del me, del mi, no? Come cioè la dimensione sociale dell'identità. Allora, secondo me ci sono due tipi di gesti. I gesti riflessi, che non hanno nessun significato simbolico, per esempio, ti accorgi che ti sta arrivando una pallonata sulla testa e ti ripari. Nel momento in cui tu fai quell'azione, non stai attribuendo all'evento che ti sta capitando una volontà da parte di un altro individuo. Magari c'è, ma mentre agisci non lo fai perché riconosci questa volontà. Questo si chiama gesto riflesso. Okay? Gli altri gesti sono invece gesti simbolici. Quando tu agisci, ti aspetti che l'altro reagisca alla tua azione come tu avresti reagito se l'altro l'avesse prodotta alla stessa maniera della sua. Ok? Per esempio, quando sei in macchina, facciamo l'esempio che lei faceva prima, e un altro automobilista vi taglia la strada e voi fate così con la mano, vi aspettate che lui reagisca a questa azione che voi fate come voi avreste reagito se lui l'avesse fatta a voi, d'accordo? Per quello che agite in quel modo, d'accordo? Che cosa è necessario che questo avvenga? Che ci sia un significato simbolico collegato a questo gesto, che tutti e due i soggetti condividere e capiscono, perché se non lo capiscono questo non è possibile, non avviene, d'accordo? Allora, ogni interazione ha una dimensione profondamente simbolica, cioè noi interpretiamo le azioni degli altri e le possiamo interpretare perché attribuiamo alle azioni che gli altri fanno il senso che noi avremmo attribuito a quelle azioni, se no non potremmo farlo, e quindi li tipizziamo, siamo in grado di tipizzarli. Ok? Allora, che cosa vuol dire identificare questo in un ambito operativo? Significa leggere il linguaggio delle relazioni tra queste persone, osservarle, provare a capire, perché ci saranno degli aspetti che noi riusciamo a comprendere e altri che non riusciremo a comprendere, perché non condividiamo mai completamente il senso. Mi ricordo tanti anni fa, negli anni 50, ai politologi piaceva venire a studiare i contesti meridionali italiani, politologi statunitensi, per esempio in quegli anni è nato il concetto di femminismo morale, d'accordo? Ma allora, a livello di questo esempio, qualche mese fa ho incontrato una collega francese che è venuto più con me, mi ha detto, sai, mi sono fatto accompagnare in un paesino che si chiama, c'è qualcuno che viene dalla Basilicata per caso, in un paesino della provincia di Potenza, si chiama Chiaromonte. È lì che è nato il concetto di femminismo morale, che oggi si usa in Italia per definire alcune caratteristiche del Sud e a livello mondiale dell'Italia, ma al di là di questo concetto, mi sono fatto accompagnare per un intervento e ho visto che c'erano tutti gli uomini, era la domenica, dopo il pranzo, soltanto uomini a prendere il caffè e a bere di fronte al bar del comune. e ha detto questo in Francia non potrebbe mai avere un processo, non potrebbe mai succedere. E lì c'è la difficoltà di attribuire un senso a quel comportamento. Lui non riesce a capire perché non c'è anche donna. Qual è il senso di questa azione? Perché queste persone interagiscono tra di loro? Quali sono i simboli del circolo tra di loro che prevedono una segregazione sessuale? Lui era rimasto colpito, ma l'anno scorso, non sto parlando degli anni 50, dalla segregazione sessuale, cioè dal fatto che ci fossero soltanto loro in quel momento. Ora, al di là dell'esempio specifico, e quindi mi ha detto, ho visto Banfield che parlava dopo, essendo io un, cioè, mi sono un po' occupato di femminismo urbano, del tema di ricerca, stavo, guarda, non c'entra molto questo di Banfield, ma adesso al di là della vicenda scientifica di per sé. Però questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi dovrete intervenire in un contesto che non conoscete, ci saranno aspetti che non capirete la dimensione simbolica, la dimensione della dimensione. Bisogna in qualche modo capire. Ecco perché mi vengono più male la dimensione della dimensione. Sì, è vero. Come si fanno a capire? Parlando con dei testimoni significativi. Ma quelle persone lì, no? Di che, perché sono amici tra di loro? In che modo si aggregano? Cioè cercare di trovare degli indicatori di legame simbolico che altrimenti, se non decodificate, non capite. Questo dice, ma perché non ci sono le donne a pigliarsi il tè sedute dopo pranzo lì fuori, se ci sono soltanto gli uomini? Io che sono meridionale lo capisco, cioè non rimango stupito se vedo il bar centrale è da domenica pomeriggio con la gente che si fa la mano e fuma una sigaretta fuori senza venire d'accordo, è una cosa che ho visto da piccolo, capisco il senso di quelle azioni, ma se devo intervenire in un contesto che non conosco, che non capisco, come faccio ad attribuire un senso alle azioni reciproche che questi soggetti fanno? Allora lì è importante parlare, avere delle informazioni su di me, sulla dimensione sociale che mi dà. Che se non li avete, non capite, ecco, buonasera, non capite qual è la dimensione simbolica della loro interazione. Stiamo parlando di Nick Crossley, autore che trovate nel testo della Nicola, e delle dimensioni dell'interazione secondo Nick Crossley. Vediamo la seconda dimensione, la dimensione affettiva, e qui invece gli indicatori sono sostanzialmente noti, chiari, utilizzabili, eh? Gli attori reagiscono in maniera più o meno emotivamente, sempre più o meno emotivamente reazioni altrui, attribuiscono agli altri orientamenti emotivi e affettivi. Quando c'è emotività, quando c'è affettività, quando l'altro è un bene per la persona, quindi qualsiasi indicatore di affettività può essere utilizzabile, perché sia compreso l'oggetto, la parola, il termine da parte della persona con la quale state parlando. Chiaramente la dimensione affettiva è una dimensione che va tenuta in considerazione soprattutto per l'erogazione di sostegni primari. Le reti affettive vanno in qualche modo favorite piuttosto che contrastate. Voi pensate che studi di questo tipo furono fatti, chissà perché oggi parliamo della Lucania in modo particolare, quando si trattò di trasferire dai sassi di Matera gli abitanti ai condomini di nuova costruzione per favorire in qualche modo. La terza dimensione è la dimensione delle regole, la dimensione della convenzione o innovazione. Perché convenzione? Le regole delle interazioni sono dei protagonisti importanti nelle relazioni. Se dei soggetti sono abituati a interagire secondo alcune regole interattive, è necessario che voi le conosciate, che le facciate emergere. In senso più generale, quindi uscendo da questi esempi di carattere molto applicativo che stiamo facendo, le interazioni presentano sempre delle convenzioni, cioè delle consuetudini, delle regole, che gli attori interagenti tendenzialmente rispettano. Il rispetto delle regole di interazione consente di comunicare in maniera significativa. Cosa significa comunicare in maniera significativa? Ottimo. Significa esattamente questo, cioè fare in modo che l'altro capisca quello che vuol dire. Che sembra una cosa scontata, ma ma non lo è, soprattutto se voi dovete capire quali sono le norme di un contesto che tendenzialmente non conoscete, a meno che l'evento purtroppo non vi riguardi direttamente come soggetti colpiti, quindi oggetto del contesto, d'accordo? Tendenzialmente noi non li conosciamo, però ci sono degli indicatori tutto sommato utilizzabili in generale, cioè che può essere anche sempre meglio utilizzabili dichiarati sul territorio, garantire una circolazione, le regole servono a garantire una circolazione efficace dei simboli, quindi una solida base per l'esistenza dell'interazione stessa, per la riproduzione nel corso del tempo della riproduzione stessa, se non c'è l'interazione, se non c'è un simbolo di interazione, come ho detto, non c'è, sviluppare ulteriori norme condivise da coloro che interagiscono, quindi innovare, produrre nuove regole interattive e poi impegnarsi in contesti istituzionali. Perché è importante l'aspetto dell'innovazione nell'ambito dell'intervento in situazioni di emergenza? Perché è necessario potenziare le relazioni, in modo da facilitare l'assistenza reciproca. Diciamo che questo è bisogna utilizzare, allora, introdurre regole che favoriscano questo. Ecco, volevo dire qualcosa, lei? Sì. Dire che l'introduzione dell'innovazione permette anche di gestire meglio l'ambiente, nel senso che se noi possiamo far sì di inserire all'interno nuove tipologie di meccanismi di intervento, nuove, diciamo, gestione dell'emergenza stessa, possiamo diminuire in un senso pratico sia le risorse da impiegare, quindi avere una maggiore efficienza, possiamo inserire anche nel tempo stesso un minore dispendio di soldi. Ecco, allora, quello che lei dice, lo parlo dal punto pratico. No, lei parla dal punto pratico, ma dal punto pratico istituzionale. Esatto. Cioè, questa è la visione in ambito delle, diciamo, delle relazioni tra organizzazioni, d'accordo? Cioè la novità organizzativa rispetto agli attori che devono organizzare il servizio di intervento. In questo ambito qua, l'innovazione, quindi senz'altro, va bene dal punto di vista dei soggetti collettivi, ma dal punto di vista dei soggetti individuali, l'innovazione normativa consiste nel fatto che le persone che vi dovete aiutare devono interagire secondo regole nuove, perché si trovano in una situazione nuova, di assoluta emergenza. Allora, per dire, ad esempio, quando sono stati in adulto, è capitato che i bambini non avevano più la scuola, quindi di conseguenza tante volte i punti di aggregazione venivano gestiti da chi? Dagli scout. In questo frangente qua era una cosa innovativa per loro, non andava a perdere il discorso del meccanismo scuola. Dopodiché le maestre venivano nella tenda e insegnavano nella tenda. Quindi questo è un meccanismo nuovo, innovativo per insegnare, non si perde la modalità di insegnamento, del procedimento della scolastica. Però diciamo, se ci sono delle regole interattive tra queste persone, adesso. Se io per esempio pratico. No, esempio pratico delle relazioni per il gruppo dei pari, per esempio, no? E segue le regole che sono scritte da nessuna parte, sono delle norme per l'interazione. Bisogna capire quali sono e innestare le nuove in modo che non vadano eccessivamente in conflitto con le vecchie, perché altrimenti non si ottiene di successo. Cioè, lei non ritiene dentro una tenda, non ce la fa tenere durante la lezione, faccio un esempio anch'io pratico. Però se si trova delle modalità di insegnamento nuove, innovative, per far sì che lo possano fare. Certo, sì, innovative se le altre non hanno funzionato, esatto, d'accordo? Però io ritengo che utilizzando gli strumenti di ricerca standardizzati si possa capire qual è il tipo di normatività, cioè la dimensione della convenzione che trovate nelle relazioni tra queste persone, e poi decidere quali interventi innovativi utilizzare sulla base del contesto che si trovano, che non possono essere standardizzati completamente. Perché possono essere diverse le cause di difficoltà, ma soprattutto perché sono molto diverse tra di loro le persone che interagiscono. Ok, la dimensione simbolica dei legami, delle convenzioni di un intervento che si deve fare in un piccolo paesino della provincia di Palermo non è senza dubbio, non ha niente a che fare con un intervento che si deve fare in un contesto altamente urbanizzato del centro Europa. D'accordo? È chiaro che non si può immaginare di avere, come dire, di intervenire sulle relazioni sociali come se fossero uguali, perché non sono uguali, no? Però possono essere uguali gli strumenti per l'analisi. E quindi se c'è un intervento che si presenta in maniera diversa in base al tipo di contesto trovato, è chiaro che secondo me è molto probabile che funzioni, d'accordo? Quindi diciamo che anche nella razionalità ci può essere veniamo alla dimensione strategica, se non riusciamo a finire una. La dimensione strategica è la dimensione della strategia all'interno della relazione. Allora, è chiaro che la strategia nella relazione è molto importante se voi avete bisogno di fare in modo che questi soggetti interagiscano per il raggiungimento di uno scopo. Ok? Dovete fare conto, dovete confrontarvi con la loro visione strategica delle azioni, perché non possono essere obbligati oltre una certa soglia a comportarsi in una certa maniera, a essere in relazione con gli altri, eccetera. E io immagino che una delle cose importanti che voi che intervenite in queste situazioni di bisogno dovete tenere sotto controllo è il livello di insoddisfazione sociale, quindi il controllo, nel senso di evitare situazioni eccessivamente oppositive, dei grandi disordini, perché è una situazione che può essere può facilmente essere perduta dal punto di vista del controllo, no? Però sono ipotesi, immagino che sia così. È vero, non hanno più dei punti di riferimento. Ecco, allora, le interazioni hanno sempre una dimensione strategica, nella misura in cui gli attori organizzano riflessivamente le loro relazioni. Che cosa vuol dire organizzano riflessivamente le loro relazioni? Vuol dire che sono capaci di riflessività interiore, ma dentro la riflessività, nella conversazione c'è già l'altro, c'è già il soggetto con cui interagiscono, cioè la strategia è formata riflessivamente rispetto all'altro. Si aspettano già che l'altro reagirà in una certa maniera, perché abbia determinati desideri, eccetera. Valutano gli altri, anche se forse in maniera pre-riflessiva, proiettandoli nel futuro, prevedendo le possibilità di carattere positivo e negativo in relazione agli altri, e orientandosi verso tali possibilità. Con quale scopo? Con lo scopo di perseguire il proprio profitto. Le interazioni implicano immancabilmente conflitti di interesse che i diversi partner tenteranno di risolvere in modi che almeno non risultino per loro svantaggiosi. Allora, secondo voi, in una situazione di emergenza ci possono essere dei comportamenti opportunistici da parte dei singoli? Potete fare qualche esempio? Fate qualche esempio di comportamento opportunistico. Avere una tenda tutta per sé. Il più estremo c'è la Marquenzi. Cioè anche rispetto ai soggetti colpiti, da parte dei soggetti colpiti da emergenza. Quindi sciacallaggio, avere più beni primari, possiamo fare una categoria aperta di avere dei beni primari propri, perché è una mancanza. Il fatto di avere una mancanza va a essere compensata con il fatto di prendere qualcos'altro in più rispetto agli altri. Adesso non dico nel momento in cui si serve il pasto, perché tu vuoi usare in una certa maniera, ma il fatto che io devo avere il mio nucleo familiare, posso avere una tenda propria per sé rispetto magari a un altro che deve convivere in prima emergenza con un altro nucleo familiare, per me è l'ottenimento di un traguardo rispetto all'altra famiglia. Il fatto che gli diano magari una responsabilità all'interno di un campo riscollato rispetto a un altro, per me è un traguardo. Ok, avete presenti che vi vengono in mente? Diciamo che allora l'approccio di chi interviene può essere quello di comporre delle diverse strategie individuali, cioè sommare le razionalità dei singoli partendo da assunto. Ora, in base all'approccio di Crosley, però, questo non è possibile. È una strada sbagliata che non porta da nessuna parte. Perché? No, ma al di là del concetto più buono di non funziona secondo l'approccio di Crosley, perché le interazioni prevedono una dimensione strategica a partire dalla considerazione del punto di vista dell'altro. Cioè la strategia sta immaginandosi la condizione dell'altro. Questo vuol dire che quando un individuo prova a tenersi una tenda tutta per sé, lo fa avendo una certa rappresentazione del rapporto con l'altro e quindi produce un'azione che alla fine è strategicamente negativa anche per sé, non soltanto a livello aggregato, ma anche per sé. Crosby dice che funziona così. Allora, perché è utile la teoria dei giochi per analizzare il tema della dimensione strategica? La teoria dei giochi è utile perché funziona con una concezione semplice dell'interazione e della relazione sociale e può costituire un valido tentativo per produrre una ricostruzione dei meccanismi che governano le interazioni concretamente vissute dagli individui. Rispetto a questo, voglio farvi vedere un esempio di payoff collegati al dilemma del prigioniero. Avete mai sentito parlare del prigioniero? C'è qualcuno che si ricorda che cos'è? Si ricorda che cos'è? Più o meno. Allora, ci sono due. Ci sono due soggetti che vengono arrestati, tanto ve la racconto con te come c'è. Ok. Allora, e li mettono in stanze diverse, è una teoria di gioco a livello teorico. Molto interessante. E magari si potrebbe anche parlare di un esempio. Immaginatevi un esempio in ambito di emergenza, no? Si mettono in due stanze diverse e si dice, la polizia gli dice, guarda, il giudice dice, guarda, se tu confessi di aver compiuto di essere uno dei più gravi e l'altro non confessa, tu ottieni la libertà o uno sconto della pena e l'altro invece il massimo della pena. Se entrambi confessate otterrete 6 anni, in questo caso io ho fatto un esempio con degli anni di carcere, no? Di reclusione. Se entrambi non confessate, avrete il minimo della pena, ma vi farete un anno di galera. Allora, perché è interessante questo esempio? No, ha capito? No, il tuo soggetto. Quindi, quali sono gli scenari che ci possiamo trovare di fronte? Questi non possono comunicare tra di loro, eh? E un po', diciamo, anche noi, nel senso che prima di interagire non abbiamo comunicato. Dobbiamo interagire, decidere come distribuire una risorsa. Entrambi possono confessare, se entrambi confessano ci avranno 6 anni di carcere, se nessuno dei due confessa 1 anno, se invece si presentano queste differenze, chi non confessa avrà il massimo della pena e l'altro avrà la libertà. Perché è interessante questo aspetto? Perché la dimensione strategica individuale va in conflitto con quella di gruppo, rispetto a che cosa? Non rispetto al bene comune, ma rispetto al bene proprio, personale. Cioè io devo decidere se confessare o no. Ok, se confesso e ragiono soltanto, come dire, a livello strettamente personale mio, cioè non tengo in considerazione l'altro, anche se so che quello che farà l'altro avrà incidenza nei miei confronti, se io confesso posso ottenere il massimo sconto della pena, d'accordo? Posso ottenere il massimo sconto della pena. Quindi l'attore perfettamente razionale che cosa farà in questo caso? Cercherà di massimizzare con la sua azione il beneficio che trae dalla sua azione, cioè confesserà, d'accordo? Se tutti e due lo fanno, però entrambi si beccano 6 anni di carcere, ok? L'aspetto interessante di questa faccenda, questo che è ottimo in ambito interazionista, è che il primo incarcerato sa che l'altro ha la stessa opzione che ha lui in questo momento. Allora, per decidere che cosa è razionale per lui, si dovrà mettere nei panni dell'altro. Ok? E che cosa dirà? Probabilmente potrebbe dire anche l'altro proverà ad avere il minimo della pena e quindi confesserà anche lui. Se entrambi confessiamo otteniamo però 6 anni. Allora che cosa mi conviene fare? Mi conviene forse non confessare. Ora voi che siete delle forze dell'ordine tappate due venti, ma è un esempio tipicamente diciamo di scuola economico, tipicamente, ecco, ma se non confesserà rischierà di beccarsi 7 anni invece che 6. Secondo voi conviene confessare o non confessare? Allora, uno potrebbe dire: mi accontento di essere certo di avere un anno, nell'idea che l'altro però faccia lo stesso, perché se l'altro confessa io non ho ottenuto nessun beneficio, sono un piccolo peggioramento a livello di pena. Allora, che cosa dice? Perché Crosley utilizza il dilemma del prigioniero? Perché queste situazioni sono situazioni che ci riguardano continuamente, tutte le nostre scelte prevedono una scelta da parte di altri. E dice Crosley: il limite di questa impostazione è di immaginare che la scelta fra agire individualistico e cooperativo, qui è chiaro che l'agire cooperativo è anche l'agire più razionale per il singolo, ci permette di sapere qual è il livello di affidabilità delle persone con le quali interagiamo. Ok? Mutatis mutandis, riportato questo in un esempio di vita quotidiana, se la persona con la quale stiamo interagendo tradisce le mie aspettative, okay? Cioè confessa mentre io non confesso, per intenderci, cioè agisce per massimizzare il suo profitto contro di me, questo resta nella mia testa come attore che interagisce. Cioè non ha senso parlare di interazioni one shot che iniziano e finiscono, ma noi abbiamo un'interazione che poi si ripete nel corso del tempo. Se lei dà una risorsa ai suoi cittadini del suo comune, e questi tradiscono le aspettative, per esempio di prima del primo anno, non è che lei se lo dimentica, poi si riparte da capo, da zero, non ho conoscenza dell'altro, questo è l'attore puramente razionale, secondo il paradigma economico, d'accordo? Questo non esiste nella realtà. Quindi, siccome nella realtà non esiste, gli individui sanno bene che l'agire strategico rispetto ai loro scopi è fondamentalmente di tipo cooperativo. Per cui, tornando all'esempio che faceva lei, e dentro questo approccio, il soggetto che prova ad avere la tenda per sé compie un'azione che non è strategica innanzitutto per sé. Allora, ci sono dei modi per favorire la circolazione di regole che inducano il comportamento cooperativo? Questo è il tema in ambito, no, io provo a fare lo sforzo di applicarlo alla situazione che voi vi trovate di fronte, perché educare la cooperazione significa non solo, questo è lo scopo del terzo settore, creare un beneficio per la collettività, ma a produrre azioni strategiche per i singoli. A partire da questo approccio si mette in discussione quello che è il paradigma classico dell'attore razionale in ambito economico, e questa è la definizione di interazione strategica del costo, interazione riguardante delle parti che hanno un conflitto di interesse parziale o totale, interagiscono razionalmente, nel senso definito dalla teoria della razione razionale, e di conseguenza cercano egoisticamente di massimizzare i propri profitti prevedendo che l'altro farà altrettanto. Questa è proprio la definizione di interazione strategica. Allora, ma, dice Crosley, l'interazione strategica non è considerabile come una sorta di stato primordiale della natura. Cioè, secondo il paradigma economico, noi siamo fatti così. Cioè, entriamo in relazione con l'altro, con lo scopo, e agiamo per massimizzare i nostri profitti. Ci sono alcune teorie sociologiche, l'abbiamo vista la scorsa settimana, la teoria dello scambio, ad esempio, che utilizzano questo approccio per spiegare il comportamento della vita umana, dalla relazione familiare, alla relazione di coppia, alla relazione economica, quindi è più semplice, evidentemente, no? In realtà, nell'interazione strategica, appunto, al di là della rational action theory, cioè della teoria dell'azione razionale, sono già identificabili le basi della cooperazione. La cooperazione è strategica, nel senso della teoria razionale. L'interazione forge ed è condizionata dalle interazioni, poiché è sollecitata da particolari condizioni e si costituisce su competenze e disposizioni che l'individuo ne ha bisogno nel corso di interazioni già vissute. Interagire in senso cooperativo nei giochi ripetuti e le nostre interazioni sono sempre dei giochi ripetuti, d'accordo? Perché continuano nel corso del tempo e apprendiamo quello che è il tal comportamento dell'altro, ci fidiamo dell'altro oppure no, cioè nelle interazioni che si sedimentano può generalmente costituire una scelta vincente anche a livello individuale. Vale la strategia interattiva del tit for dat, cioè rendere pan per focaccia, molto semplicemente. D'accordo? Allora, per esempio, mi è sollecitato questa riflessione dall'esempio che avete fatto voi, favorire delle regole che obbligano la cooperazione vuol dire arrivare più facilmente a questo tipo di situazione nelle interazioni, anche in un contesto emergenziale, con soggetti che non sono abituati a interagire, devono interagire e competere per l'attribuzione di risorse. E si può strategicamente prevedere un esercizio, un'abitudine all'agire cooperativo tra soggetti che non sono abituati a cooperare. Le scuole lo fanno regolarmente, quando si trovano di fronte a una classe in prima, no? Se voi fate caso, per esempio, il fatto che vengano continuamente cambiate le posizioni all'interno della classe all'inizio, cioè, che cos'è se non un espediente per favorire la cooperazione? Chiaro, non può essere quello l'esempio, però qui stiamo dicendo che se noi favoriamo delle regole di agire cooperativo, favoriamo il raggiungimento dello scopo dei singoli soggetti. Però le regole devono essere esterne. Le regole devono, voglio dire, le condizioni delle quali stiamo parlando prevedono. L'esempio che prima ha fatto il vostro collega è tipico di questa situazione, ma perché qui c'è qualcuno che viene dall'esterno, se non si sta rivelando questo corso di laurea. Però qual è il progetto? Quali sono le risorse che noi abbiamo in mano per ristrutturare le reti comunitarie di queste persone? Ok, l'uomo della strada vi direbbe, ma gli date, il modello lo potremmo chiamare il modello dell'elicottero che lancia un pacco, d'accordo? Arriva un pacco e voi lo distribuite. Non è questo. Ristrutturare le relazioni comunitarie significa agire in tempi molto stretti, profondamente dentro i modi di interazione che hanno gli individui. E per esempio, l'abitudine identificare non degli esperimenti, ma delle modalità operative che costringano a cooperare, favorisce un fenomeno che va al di là della costrizione all'operazione fatta nello specifico, perché abitua questi soggetti ad agire in maniera strategica cooperando con gli altri, che signori è un'altra cosa, perché azione razionale e cooperazione sono presentate come due cose alternative tra di loro, ma no, vogliamo dire che non è così. Decidi di operare per te, oppure se sei un bravo cittadino, cooperi, partecipi alla cooperazione sociale, d'accordo? Cooperi con gli altri, eccetera, ma non sono un'alternativa. Questo è, per questo è importante il CrossFit, perché utilizzando il dilemma del prigioniero dice che l'interazione strategica ci permette di identificare le basi della cooperazione. Questo è molto importante, d'accordo? E naturalmente poi non basta dire altro il discorso delle norme, delle regole, cioè tutto quello che può essere previsto nell'ambito dell'interazione. Infine, il tema della razionalità, la razionalità, quindi l'agire razionale, è relazionale e intersoggettivamente fondata. La fiducia nell'agire altrui è relazionale, o se preferite intersoggettivamente fondata. Ok? E qui poi c'è il riferimento al concetto di empatia, che però possiamo tralasciare perché è interessante, ma immagino che su questo siate già sufficientemente formati, che è l'assunzione del punto di vista dell'altro da parte in modo particolare dell'operatore. Ecco, infine la dimensione dello scambio potere. C'è questa dimensione perché le persone che avete di fronte sicuramente hanno delle differenze rispetto alle risorse di cui possono disporre. La dimensione dello scambio del potere è molto presente all'interno delle interazioni, perché le interazioni possono implicare lo scambio di beni e servizi tra gli attori, anche se non è molto, secondo me, il caso dei contesti che trovate voi in quel momento a dover gestire, d'accordo? Può riguardare più avanti, ecco, magari l'esempio che faceva lei, no? La fase della ricostruzione, eccetera, eccetera. Perché lo scambio produce potere? Perché lo scambio genera dipendenza tra gli attori e la dipendenza produce potere. In quel caso il potere ce l'ha chi interviene nella fattispecie, d'accordo? Certo che questo potere può essere esercitato prendendo strade diverse, cioè la messa a disposizione di beni, di risorse e di servizi. Ecco, per concludere con l'inquadramento teorico, domani inizieremo inizieremo a guardare bene il tema della degli indicatori, come si definisce operativamente una relazione sociale, eccetera eccetera. Proviamo a fare il percorso che fa Paolo Di Nicola, cioè di riformulare alcuni problemi tipicamente tipici della sociologia utilizzando la prospettiva di rete. Il primo esempio che trovate è l'esempio del rapporto tra comunità e società, del quale abbiamo parlato tutte le messe, ricordate? Si passa dalle relazioni comunitarie alle relazioni societarie, cioè meno ascritte, più acquisitive, più universalistiche, meno particolaristiche, eccetera eccetera. Tendenzialmente la società si può leggere con il passaggio dalla comunità alla società. Ebbene, qui vi riporto una definizione di comunità, di tre tipi di comunità di Peter Wilmot, tre significati per la comunità territoriale, che si riferisce a persone che hanno qualcosa in comune, qualcosa che è spesso definito delimitato geograficamente. Tra le varie definizioni vi porto questo in modo particolare, secondo me quella che mi interessa di più nell'ambito operativo che voi seguite, la comunità, che è la comunità delle persone che devono subire una ristrutturazione delle relazioni, è una comunità territoriale, dopo un evento catastrofico, è una comunità di interessi, senza dubbio, cioè definita da una condivisione di interesse, oltre che di un luogo, eccetera, eccetera, l'origine etnica, ecco, qui bisogna vedere le eventuali differenze all'interno, perché dentro una comunità territoriale possono essere presenti più comunità di interessi. In senso generale una comunità di interessi è anche, translocale, cioè una comunità di interesse su base religiosa non è delimitata dal punto di vista territoriale, d'accordo? Però il vostro universo è un universo controllato dal vostro punto di vista, perché è delimitato dall'ambito di impatto dell'evento catastrofico, e quindi quello è il punto quel momento per voi, d'accordo? Voi pensate a quello, pensate in generale al tema dell'integrazione tra le regioni, d'accordo? Però se avete una comunità, una porzione molto importante di soggetti che appartengono alla regione X dentro il gruppo di soggetti che dovete, questo dovete tenere conto, è un'altra comunità che incrocia la comunità territoriale e poi la comunità di attaccamento, cioè riconosce i soggetti sulla base di sentimenti comuni e che si esprime in azioni collettive. E qui naturalmente una idea, soprattutto se il contesto non è molto ampio, su le associazioni condivise, i movimenti compartecipati, gli interessi delle persone, io se fossi al vostro posto non lo farei, proverei a farlo, perché questo è un'altra forma di comunità ed è un'altra risorsa, o può essere un'opposizione a un intervento se non è identificata e se non è controllata, d'accordo? L'analisi strutturale si contraddistingue perché non infila i soggetti dentro confini, ma analizza le relazioni tra gli individui, studia i legami, non soltanto le regole, e poi analizza le relazioni e non gli attributi individuali. Su questo aspetto ci siamo già, confrontati sufficientemente. Gli altri tre oggetti che fa vedere Di Nicola è trovato in questa pagina. Magari segnate due pagine se volete, la pagina 148-152, il tema della famiglia, rivisto in chiave strutturale relazionale. La famiglia, pur nella sua immediatezza e familiarità, necessita di studio, di una definizione che è adeguata agli obiettivi conoscitivi dal senso intenzionato che gli attori sociali attribuiscono alle relazioni familiari. Quindi, per esempio, la prima cosa da identificare quando se volete ricostruire le cerchie di appartenenza dei soggetti è capire quali sono i collegati tra loro da relazioni di parentela, perché è chiaro che quelle sono le basi, no? Beh, non so se lo facciate già, se si è già previsto questo, però la ricostruzione dei legami parentali è molto importante, vedere anche in che modo si incastrano tra di loro, cioè qual è il network complessivo dei legami parentali. Abbiamo poi il tema della mobilità sociale, che è stato rivisto in chiave relazionale, questa è una caso abbiamo la posizione strutturale che è identificabile nel tema della mobilità come le opportunità, le risorse di capitali che provengono ai soggetti, e quindi grazie alla rete è possibile che un individuo migliori la sua posizione sociale. Quando si parla di mobilità sociale si parla di posizione dell'individuo nella stratificazione sociale, e in genere c'è una variabile che identifica questo, cioè il mestiere che l'individuo fa. Il mestiere ci fa collocare nella classe media, nella classe bassa, nella classe alta. Poi ci sono diverse modalità di presentazione, 3, 6, 12 classi, in base a questo. La mobilità sociale verticale, cioè il passaggio da una classe all'altra, il miglioramento della propria condizione lavorativa, dipende dalla quantità di risorse che noi riusciamo a ottenere attraverso il network nel quale siamo inseriti. E poi c'è il tema delle organizzazioni. Nello studio delle organizzazioni, dentro le organizzazioni, è importante identificare il network, le reti. Non si possono, ecco qui c'è una citazione di Alessandro Lomi, le teorie della contingenza e della dipendenza dalle risorse hanno contribuito infatti in modo fondamentale al riconoscimento del fatto oggi comune che il comportamento dell'impresa non può essere spiegato solo in riferimento alle azioni e alle politiche progettate all'interno della politica, all'interno dell'impresa stessa, che non è possibile prescindere dalla struttura delle relazioni interorganizzative per comprendere il funzionamento della singola impresa, cioè appunto le relazioni tra le organizzazioni. E noi vedremo questo aspetto, tra l'altro, quando affronteremo l'ultimo saggio, quello relativo all'evento 11 settembre negli Stati Uniti d'America. Un altro tema che trovate ben affrontato è il tema appunto del capitale sociale. Che cos'è il capitale sociale? E alla fine, diciamo, in questi ultimi capitoli del ricordo si occupa di identificare alcuni temi molto rilevanti nella sociologia contemporanea relativi all'analisi strutturale, quindi i temi che abbiamo appena visto, e poi il tema delle reti personali del capitale sociale, e si occupa di semantizzare le reti, cioè trovare delle tipologie della ricostruzione delle reti. No? Su questi aspetti poi mi dispiace, ovviamente non potrà partecipare alle lezioni, ma andremo in profondità quando vedremo quali sono i componenti della relazione, su quali caratteristiche si raccolgono i dati, come si informatizzano, eccetera, eccetera. D'accordo? Questo non ci sarà modo di vedere, accedere, portare avanti. Allora, innanzitutto c'è il testo, no? C'è il testo di chiesi, e poi se vuole, no, faccio senza nessun problema. Se avete difficoltà, ma io seguo molto i testi, spiego molto i testi a lezione, proprio perché altrimenti i testi, no? A me qualche volta è capitato all'università che il corso fosse su una cosa diversa rispetto al programma da presentare, reagivo in maniera sempre molto nervosa a questo. Infatti quando ho cominciato a fare il mio mestiere ho utilizzato un approccio proprio che è la negazione di quello. Allora, il capitale sociale è la quantità delle risorse materiali e non materiali a cui l'attore può ricorrere grazie alle sue reti di relazioni. Che cos'è un capitale? Un capitale è qualcosa che possiamo mobilitare, investire per ottenere un vantaggio, un beneficio. Ok, un appartamento chiuso è un patrimonio, un appartamento che noi affittiamo, cioè in affitto diventa un capitale perché lo investiamo, d'accordo? Allora, ci sono forme di capitali che non sono economici, strumentali, che non sono collegati alle competenze degli individui. Che cos'è il capitale culturale? Le competenze che però voi usate per ottenere un vantaggio a livello magari. Riuscite a fare un mestiere, avete delle competenze che qualcuno paga, capitale umano, capitale culturale, sono concetti parzialmente sovrapponibili, quindi io preferisco parlare di capitale culturale, però il capitale umano è esattamente la stessa cosa, secondo me. Il capitale sociale sono le relazioni, che noi usiamo per ottenere un vantaggio. Allora, il vostro scopo, quando riorganizzate le strutture comunitarie, dovrebbe essere quello di produrre, rafforzare il capitale sociale dei soggetti che stanno aiutando. Cioè creare delle relazioni, favorire la capacità dei soggetti di usare le relazioni per migliorare il loro tenore di vita, la qualità della loro vita, la risposta ai bisogni che hanno. Chiaramente questo capitale non è economico, non è capitale culturale, ma è fatto di relazioni. A attraverso le relazioni io posso però ottenere contatto, posso ottenere competenze, abilità, informazioni che mi sono utili per raggiungere il rischio. Ok? È un aumento di opportunità, d'accordo? Noi possiamo misurare per ciascun individuo quanto è e qual è il suo capitale economico, qual è e qualche misura ha capitale culturale. Ci sono per esempio indicatori molto semplici di capitale culturale che lo studio, d'accordo? Un indicatore molto semplice. E qual è il capitale sociale? Il capitale sociale è dato dalla posizione che ha nella rete di sostegno, cioè quanti legami ha se è un broker oppure un soggetto che sente molto la costrizione, l'effetto di costrizione della rete, se è un soggetto che è stato connesso con individui molto diversi tra di loro, se ha legami forti o legami deboli, eccetera, eccetera. E ci sono diverse forme di capitale sociale perché possiamo collegare queste forme alle reti primarie, cioè la famiglia, alle reti comunitarie, gli amici, i vicini di casa, eccetera, alle reti secondarie, dicevo anche molto importanti, cioè frequentare i soggetti in contesti associativi, la relazione con la società in quanto tale, l'atto generalizzato, cioè gente che sfida molto degli altri, che se non li conosce, gente che invece non sfida, questo livello di fiducia in Italia in genere una scala 0-10 è sempre compreso tra 5-5,5. Quanto più figli degli altri, così alto. E infatti, anch'io ho scalato questo, ma era un dato che torna nel corso del tempo, diciamo che è piuttosto solido, e poi invece la fiducia nelle istituzioni, e anche questa è una forma di capitale sociale. Concludo con la sistematizzazione, siamo fuori, però bene, basta, allora questa cosa la vediamo domani, però lei domani non c'è, io se vuoi la posso dire adesso, domani la ripeto a voi se volete andare, è una roba di 5 minuti. Avanti, arrivo. Come? Buongiorno. Buongiorno. Non ve lo porto dietro, lascio. No, ok. Allora, questo è semplicemente l'elenco delle possibili tipologie delle reti che trovate da pagina 172 a pagina 184. L'esempio, forse lo faceva lei prima, dello scopo è la tipologia delle reti di carattere funzionale, ok? Ma domani questa torno a proiettarla, va bene questa slide? Funzionale per tipi di connessioni, per tipi di legami, per livello di formalizzazione e per codici simbolici. A questo punto voi parliamo di codici simbolici, che in genere è la cosa più complicata che c'è. Avendo appena visto Crosley siete esperti e non dobbiamo neanche approfondirlo troppo. E poi invece, rispetto al tema della semantizzazione delle reti, e questo le vedremo bene a livello tecnico, possiamo avere delle statistiche di struttura o di posizione. La statistica di struttura riguarda l'intera rete, cioè io di questa rete posso produrre delle statistiche sul livello di coesione sociale complessiva, naturalmente una coesione che poi riguarderà tutti i soggetti presenti all'interno della rete, ma posso pure produrre delle statistiche posizionali di posizione per ciascun soggetto, sapere qual è la sua carta di identità strutturale rispetto non solo alle relazioni dirette che ha. Questo ne ha tre, d'accordo? Anche questo ne ha tre. Però questo soggetto è un po' più lontano rispetto al resto della rete di quanto non sia quest'altro. Quindi avere statistiche di posizione che sono collegate alla posizione del soggetto complessiva all'interno della rete. Ma come vedete questi sono dei giudici relativi ai singoli nodi. Ed è appunto il senso della semantizzazione che la Tipicola presenta come statistica di struttura o statistiche invece di posizione. E con questo abbiamo concluso il primo volume che voi dovete leggere per l'esame. Domani entreremo bene in media stress subito sugli aspetti invece di carattere più tecnico, parlando adesso di chiesi, l'analisi dei reticoli. Ok? Testo iperschematico con le misure, eccetera. Se doveste mai avere delle difficoltà nello studio, ci sentiamo, domani materiale integrativo non è un problema. Ok? Bene, signori, grazie per la vostra pazienza. Avete qualche domanda? Se sì. Ah, ok. E scusate, sono usato di questi 7 minuti, va bene?